tutti fatti. La storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Atene e Buenos Aires, due capitali lontane e non solo geograficamente, che nulla o poco sembrano avere in comune. In realtà qualcosa in comune lo hanno. Sono le capitali di due paesi, la Grecia e l'Argentina, che nel recente passato sono state accomunate da un evento che ne ha cambiato per molti versi la storia: il default, il fallimento, in sostanza l'incapacità di far fronte ai debiti contratti, soprattutto con i creditori internazionali. Nel caso della Grecia, la scorsa estate si è giunti, come sappiamo, a un passo dal default. L'Argentina quel default lo ha vissuto sulla propria pelle, in quello che nella memoria collettiva anche italiana è stato il disastro dei cosiddetti tango bond, 430.000 risparmiatori italiani che acquistarono i bond argentini attratti dagli alti rendimenti e che hanno riportato perdite fino all'80% del capitale investito. E proprio di Argentina parliamo questa sera nel nostro nuovo spazio dedicato alla storia dell'economia, che la settimana scorsa abbiamo dedicato a un parallelo tra la crisi del debito greco e il dimezzamento del debito contratto dalla Germania deciso nella conferenza di Londra del 1953. Una bancarotta, quella argentina del 2001, del valore di 140 miliardi di dollari. A luglio del 2014, quindi in tempi più vicini a noi, è stato dichiarato il secondo default tecnico per Buenos Aires. Nel 1999 il neoeletto presidente Fernando de la Rúa trovò un paese dove la disoccupazione era ormai a livelli critici e gli effetti negativi del tasso di cambio fisso erano ben evidenti. In quello stesso anno il PIL si contrasse del 4% e il paese entrò in una profonda recessione. Cominciò la fuga degli investitori, che nel 2001 si trasformò in veri e propri assalti agli sportelli delle banche da parte dei risparmiatori, che ritiravano i loro risparmi e li convertivano in dollari. Sotto accusa, la politica economica di Domingo Cavallo, l'economista che aveva introdotto la parità fissa tra peso e dollaro, ma anche l'inflessibilità del Fondo Monetario Internazionale, principale creditore dell'Argentina. Scarsa competitività, struttura economica debole. Grecia e Argentina presentano diverse analogie. Turismo e attività portuali sono i principali asset dell'economia greca. L'Argentina è rimasta ancorata a un modello agroesportatore, senza mai diventare un paese capace di creare valore aggiunto alla sua produzione. Crisi non solo economica, ma anche sociale e politica. Per entrambi i paesi, Grecia e Argentina, l'eredità delle dittature, quella dei colonnelli greci e quella dei militari argentini, è stata devastante. La storia si ripete, come ci ricorda la regista Lucrezia Martel, regista del film La Sienaga, parodia della disgregazione sociale argentina. Hay que hablar persino después de peor. Quella historia se repite. Della crisi argentina del 2001 e delle analogie e differenze con la crisi che ha investito la Grecia dal 2010 in poi, parliamo questa sera con il professor Innocenzo Cipolletta, presidente del Fondo Italiano di Investimento, economista, presidente di UBS Italia e dell'Università di Trento. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, ci aiuti un po' a comprendere un po' più da vicino se in effetti queste analogie tra le crisi di due debiti sovrani ci sono oppure sono distanti tra di loro e ci sono pochi elementi in comune. Ma ci sono analogie senz'altro, ci sono anche delle differenze sostanziali. Le analogie le avete sottolineate in questo racconto, anche diciamo dal punto di vista politico, cioè una precedenza di dittatori e quindi di non democrazia in entrambi i paesi, anche se per la Grecia è più distante come tempo. La differenza fondamentale è che la crisi greca si iscrive nell'ambito della crisi dell'euro, mentre la crisi argentina era una crisi nazionale. La crisi greca si iscrive nell'ambito dell'euro perché, essendo entrata la Grecia nell'euro direttamente, questa situazione lo ha portato a non poter più correggere la propria moneta e a mettere in crisi l'euro stesso. La Grecia ha messo in crisi tutta la zona dell'euro perché il suo eventuale default di cui si è parlato ha di fatto svelato una novità di mercati. L'euro non era una vera moneta, ma l'euro era quasi un accordo di cambio, perché una vera moneta non si disgrega per il fallimento di una sua regione, diciamo, come è successo per esempio per qualche stato degli Stati Uniti d'America, che non ha certo fatto saltare l'area del dollaro, e mentre invece con la Grecia questo sarebbe successo, perché sarebbe dovuta uscire dall'euro, e quindi l'euro si trasforma immediatamente da quello che era, cioè una moneta, in un accordo di cambio, fisso, molto particolare, perché non ci si può uscire da questo accordo di cambio. E quindi è una situazione paradossale che ha generato un grosso disastro sui mercati, ha affossato altri paesi, compreso il nostro, e ancora oggi ne paghiamo le conseguenze, visto che non ci siamo più ripresi, siamo ancora nella fase di recessione, e l'Europa nel suo insieme è appena adesso tornata ai livelli del 2007, laddove paesi come il nostro, l'Italia, siamo ancora a livelli di reddito più bassi, e la Grecia addirittura è tornata indietro verso gli anni 80. E l'Italia com'è messa, professor Cipolletta, con il suo debito pubblico del 132% del PIL? Ma finché la moneta unica è moneta unica, l'Italia non ha nulla da temere, perché è vero che noi abbiamo un alto debito pubblico, ma abbiamo un basso disavanzo, e soprattutto rispetto alla Grecia siamo un paese con una struttura economica forte. Per dire una sciocchezza, ma se noi dovessimo uscire dall'euro e dovessimo svalutare la moneta che ne risulta, sarebbero anche dei grossi guai per gli altri paesi, perché noi finiremo per inondarli dei nostri prodotti a dei prezzi decisamente più bassi. Noi saremmo più poveri, quindi non abbiamo nessun interesse a fare un'operazione del genere, ma anche gli altri paesi avrebbero problemi. La Grecia è un paese che ha pochissime produzioni, ha soprattutto del turismo da esportare eventualmente, e quindi se uscisse dall'euro e svalutasse la sua moneta si troverebbe in una situazione decisamente più negativa, e l'Europa non ne avrebbe nessuna conseguenza. Quindi sono situazioni completamente diverse, ma sono simili nella misura in cui siamo tutti parte dell'euro e dovremmo essere delle regioni di una nazione che, avendo una sola moneta, non lascia fallire una regione facendola uscire dalla moneta. Casomai fallisce, ma rimane dentro la moneta, e quindi continuerebbe a pagare tassi di interesse normali, come avviene in qualsiasi stato. Ebbene già, è proprio la crisi del debito greco, il quasi default della Grecia, però ha messo in luce in modo palese e drammatico l'assoluta mancanza di strategia politica, se vogliamo, condivisa in Europa, e questo forse è un problema serio, oltre a denunciare il fatto che la politica economica basata sul solo rigore fondamentalmente non funziona. Assolutamente, noi abbiamo visto che colpiti dalla stessa crisi, anzi da una crisi provocata dagli Stati Uniti d'America, questa nazione, gli Stati Uniti d'America, hanno fatto una politica espansiva, accrescendo sia il disavanzo pubblico che il debito, che ormai è superiore a quello dell'Italia, bisogna ricordarlo, non solo in valore assoluto, ma ormai il debito degli Stati Uniti d'America rispetto al prodotto interno lordo è superiore al nostro. Ebbene, loro sono tornati a crescere, seppure non sono in fase di espansione gigantesca, ma comunque hanno abbondantemente recuperato quello che avevano perso e sono avviati in una fase di crescita. E invece l'Europa si trova ancora a dei livelli di reddito che sono appena quelli prima della crisi, e molti dei suoi paesi, compreso noi, invece siamo ancora indietro, e continuiamo con queste politiche di carattere recessivo, perché lo vediamo, il governo italiano ha fatto un'azione di presentazione della legge di stabilità proprio ieri, ed è una legge che tende a sostenere l'economia, in questo senso è positivo, però parliamo di decimali, parliamo di decimali, perché non c'è lo spazio per non dover superare questi parametri europei. Bene, molte grazie professor Cipolletta, grazie per essere stato con noi e buona grazie serata. Grazie ancora, arrivederci. Independientes.